24 mattino di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. Yeah, listen, yeah. I'm on seven with Jamaica, doing mountain, shining down the river. All my friends there, pulling on those reeds, younger than the mountain. Non attacchiamo Virginia Raggi. Rispettiamo il voto dei cittadini di Roma. Facciamo vedere che noi siamo diversi. Credo che saranno a lutto tutti i membri dell'associazione Amici delle Bambole, diciamo, immagino che staranno soffrendo. Facendo un esempio calcistico, il Movimento 5 Stelle è come Sassuolo, cioè una squadra simpatica che attira simpatia, dopodiché vai a giocare prima linea contro la Juventus di Higuain e prendi 3 gol in 10 minuti, perché così deve essere. Come diceva Formica, la politica è sangue merda, non è utopia. Cari amici del 5 Stelle, vi informa Sallusti che avete scoperto che la politica è sangue merda, come diceva Formica. E Virginia Raggi si lamenta dei giornalisti, mi fate un po' pena, l'immortala con il telefonino uscita da casa e lì dice, ecco, aspettate che cosa, il dito nel naso, che sia spettinata, che sbaglio a mettere l'immondizia, magari l'umido nel secco, il secco nell'umido, non lo so. Ma allora, devo dire che... così, da giornalista a giornalisti, anche a me questi assalti al microfono, questi con il microfono, questi assalti con le telecamere, questi, mi dica gente che si scapicolla e rischia di ruzzolare per strappare un'immagine, anche a me fanno un po' pena, cioè. Ma sono vittime questi giornalisti, vittime dei direttori, dei loro capi, dei talk show che gli dicono vai lì, strappa una battuta, fai di tu non tornare senza una battuta, fanno un po' pena. Cioè, la nostra professione è ridotta un po' a cose ridicole. Però non è che il 5 Stelle adesso si devono lamentare. Era così con Ignazio Marino, gli pedinavano la pandina rossa. Era così con tutti, no? Cioè, non è che se si muove il Papa, non è che se si muove Renzi, non ci siano assalti mediatici. Quindi avete scoperto l'acqua calda, eh? È così un po' con tutti. Ma il migliore è Frongia, il vice sindaco di Roma, che lui la mette subito sul chi va là. Ha detto: attenzione cari giornalisti, ho i miei cani Weimaraner che saltano fino a 3 metri. Come dire, chi ha orecchie per intendere intenda. 3 metri i cani Weimaraner, li tengo in casa e non in giardino per la vostra incolumità. Quindi, cari colleghi, al prossimo che vi dice vai sotto casa di Frongia per sentire che ne pensa, fate presente che ai cani Weimaraner. Ecco. Fatelo presente ai vostri direttori, dice va bene strappare un'immagine di Frongia, ma tornare anche con la mano sarebbe buona. Tornare con le vostre gambe sarebbe anche buona in nome di una fotografia di Frongia. È tutto pensioni, si parla di pensioni. Comunque, poi anche dell'Italicum, è bella questa dell'Italicum. Bersani adesso dice: è il governo che deve fare la prima mossa per una proposta sull'Italicum nuova. No, siete voi, no voi, no voi, ho detto voi. Asilo Mariuccia, siamo all'asilo Mariuccia. Siamo qui alle 6.35 minuti, Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Siamo con voi, cari ascoltatori. Eccoli qua, vedi che ci scrivono tantissimi dall'estero. Buongiorno da Rotterdam. Bravi, continuate a scriverci dall'estero perché presto vi coinvolgiamo. Scriveteci a 24mattino@radio24.it. Vi faremo dare il buongiorno dall'estero. Ci raccontate le prime notizie sui giornali nei vostri paesi, eh? I vostri paesi sono l'Italia, il vostro paese, paesi dove vivete. Dai, allora io voglio salutare subito con grandissimi ritorni intanto Maurizio Bianconi, uno che secondo me un paio di calci assestati a qualche giornalista ogni tanto gli darebbe, se venissero sotto casa, insomma. Bianconi, buongiorno, onorevole. Buongiorno a voi, buongiorno. Come va? Bene. Un paio di calci magari a qualcuno, a qualche giornalista. C'è un modo di fare la professione che non fa onore a chi lo esercita, sì. Ecco. Quelle esagerare appena ti vedono, eccolo il microfono lì. Ma qual è la tecnica migliore? Si mette il telefonino fingendo una chiamata, per esempio? No, io rimando un culo. Cioè, perché la cosa insopportabile poi è che se dai la risposta corretta, sul tavolo che te la mandano. Vogliono la risposta che serve, esatto. Se uno, un politico, si mette lì a fare un discorso tutto ragionato. Fanno i quiz a vedere se uno è andato a scuola, no? Se rispondi bene non ti cacano, se rispondi male li mettono dietro, uno non ha anche la fette, lo fanno. Certo, c'è anche un modo scorretto poi di esercitare, però mi sembra abbastanza marginale, perché è, diciamo così, ormai un modo deviato di fare informazione che è generalizzato. Ma infatti. Però bella questa cosa, cioè io li mando in culo e via. È la tecnica. È documentato, perché ogni tanto poi mi mandano in onda. Ah, quello sì, vedi, sì, certo, perché magari perché prima... secondo loro io faccio una brutta figura. Invece secondo me no, perché se in Italia si mandasse in culo chi si deve mandare in culo e si rispettasse chi si deve rispettare, secondo non il politico all'icore, ma secondo il buon senso, forse le cose andranno. No, ma infatti io devo dire che parteggio sempre quando c'è uno inseguito da un giornalista che magari risponde di stizza, parteggio sempre per quello che risponde di stizza. Per quello anche l'altra volta mi hanno inchiodato gli ascoltatori quando una giornalista aveva chiesto a Cicchitto una cosa, forse lo possiamo recuperare, e Cicchitto ha risposto in maniera: io non sto con Cicchitto, ma è il modo, insomma, è stato un assalto nervoso, e quindi Cicchitto ha risposto in maniera isterica. Ripeto, non fa onore neanche alla professione. Esatto. Poi ci sono argomenti complicatissimi che si dovrebbero risolvere in pede uno, come si diceva una volta in scuola, quando studiava, il professore diceva: tu hai fatto questa cosa in pede uno, cioè stando in piedi su un piede solo, in pede uno. Corsa, in pede uno. A cose complicatissime. Con una battuta che deve essere di gradimento al giornalista e al direttore che lo manda alla gente. Ma infatti Bianconi, io le ho chiamato un direttore, torna il nostro direttore, il direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno qua. Alessandro, piacere ritrovarti. Che buongiorno bello. Bianconi, uno buongiorno, che ne avrà mandate frotte di giornalisti all'inseguimento. questo è un mito, perché allora dovete sapere che i fotografi non li manda nessuno, i fotografi sono liberi professionisti, detti anche paparazzi in molti casi, che sopravvivono a stento, soprattutto in questi tempi di magra, diciamo, per la stampa e l'editoria in generale, quindi si danno da fare per cercare i personaggi da fotografare e poi piazzare le loro fotografie. Però oltre ai fotografi e direttori ci sono anche poi, non so, ormai i videogiornalisti, no? Quelli che girano con la telecamera per stampare. Sì, no, certo, però non sono mandati dai, non voglio difendere la categoria, ma non viva sono i direttori! Sono mandati dai direttori, si muovono autonomamente e poi cercano di piazzare. Però vorrei aggiungere anche, in particolare per il signor Frongia, che non, che i cani Weimaraner, che non mi risulta che ci siano, come dire, che un particolare mercato per le fotografie del signor Frost. Sì, sì, effettivamente, effettivamente forse li porti a casa della Raggi, magari lì sono più comodi e serviranno, salteranno Raggi, di più, salteranno. La Raggi numero uno in questo momento, dal punto di vista del valore delle fotografie della signora Raggi. Soprattutto per suo figlio, perché veramente Sì, però anche questa cosa del figlio, allora apriamo il Parlamento, perché tra l'altro abbiamo cambiato la sigla in onore ragazzi, di Bianconi. Prendete un caffè. E gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma abbiamo cambiato la sigla del Parlamento, abbiamo messo Renzi, così Bianconi è contento. Perché così insomma lo accogliamo bene qui al Parlamento. Come se non bastasse, tra un pochino è anche nelle pubblicità delle Cavamelli. No. Vabbè. E allora, questa cosa del figlio, però, effettivamente il figlio non si deve mettere in mezzo. Però, voglio dire, anche lei ha portato il figlio al primo consiglio comunale e l'ha messo lì sullo scranno. È stata la prima a esporre il bambino. Esatto, cioè. per carità. Due torti non fanno una ragione. No, ma sicuramente, cioè, massimo rispetto. Questo è il festival del figlio nessuno. Si è messa a fare politica gente che non sa dove la ABC delle cose. Noi paghiamo questo. Convulso desiderio di un nuovo inesperto. Si batte delle musate a far così che voi non avete manco idea. Conto essere nelle grinfie dei mascalzoni internazionalisti come quello lì, ho capito anche la consulenza di Goldman Sachs, disonesto, che non è altro. Prima ci ha rovinato e poi oggi Bianconi ce l'ha con Barroso. No, non ce l'ho, che il male nasce tutto da lì. Perché Bianconi pensa che ci siano personaggi lì, quei personaggi Goldman Sachs, la Trilateral Commission, i poteri forti. Quando poi se lo ritrova dove dico io, scherzo, a me no. Voi scherzate, voi fate come gli ebrei in Germania che dicevano che Hitler non gli faceva niente. Ha visto come ha fatto? All'ultimo se ne sono accorti. Lasciamo stare questi paragoni dolorosi. Alla fine è quella lì. È quella lì. Che sia diversa. Brindani, non lo so. Dobbiamo stare. Ma però anche... Dobbiamo stare attenti a Barroso. Allora attenzione, perché oggi i giornali raccontano anche di Monti, che è tornato. Monti proporrà una super patrimonialona, una Robin Tax europea. Non è lui che torna, Milan, ce lo mandano. Brindani, però io non ho capito sempre, ce lo mandano, perché Bianconi ha tutta una sua teoria, eccetera. Ma ce lo mandano chi, Brindani? Ce lo mandano, scusami. Cioè, nel senso, chi sarebbe sopra questi? Ci sarà uno o due o tre o quattro sopra tutti che decide? Ma io Bilderberg. La mattina glielo dico, ma lei dopo la mattina dice che è sveglio, mi sembra che la mattina dorma, ecco. E tante mattine che glielo dico chi c'è sopra, lei non può far finta di non capire. Vabbè. C'è sopra c'è un sistema che un sistema così, e non è nessun complotto, è proprio un sistema. Ma no, ho capito, ma il sistema sarà manovrato da persone 5, certo, 10, 15 le persone sono venute a Roma a dicembre, si sono chiuse dentro un albergo, in due giorni hanno deciso quello che fa l'Italia, non è uscito un comunicato stampa, e le persone sono quelle, cosa state a cercare? Perché mi stanno a giocare alla caccia al tesoro. Il Bilderberg, per intanto. È diventato un po' grillino. Sono anni il direttore che parlo così con questo. No, questo è vero, Bianconi, al limite sono i grillini che sono diventati bianconiani. Chiariamo questa cosa. Da un'errata impostazione della visione europea, perché è stata finanziarista e non democratica e politica. Ecco. Però allora, torniamo alle cose di Roma, che almeno chiudiamo la questione, perché vogliamo sentire la Raggi. Voglio chiedere poi al direttore se dà un consiglio ufficiale come gestire l'immagine a Virginia Raggi. Virginia Raggi che si è presentata così ai giornalisti. Facciamo pari. Facciamo bene, insomma, vero? Beh, un po', devo dire. Un po' sì. Un po' sì, mi fate pena. La domanda ai giornalisti proprio se la sono tirata. Ma allora le facciamo pena? Beh, un po' sì. Brindani, che dovrebbe fare questo sindaco un po'... Ma sai, parlando per un attimo seriamente, prima di tutto dovrebbero darsi una regolata e trovare l'assessore al bilancio. Sì. perché la che rimanga più di tre giorni più che altro. Mi sembra una situazione molto simile a 10 piccoli indiani, diciamo, se non sbaglio siamo arrivati a 11. Bravissimo. Ecco, 11. Siamo arrivati a 11 tra dimessi, spostati, eccetera, eccetera. Perché fino a quando la parola trasparenza resterà, come dire, una bella parola, ma in realtà tutto succede, non si capisce, il direttorio, il mini direttorio, il ruolo di Grillo, il ruolo di Casaleggio, il ruolo di Casalino. Allora, fino a quando non ci sarà un po' di chiarezza, è ovvio che, a parte i fotografi, anche i giornalisti saranno scatenati sulle tracce della radio. Il consiglio è quello di riuscire dopo tre mesi a formare la giunta. Esatto, io credo che sia così, cioè se inizia a lavorare, a fare le cose pratiche, la gente non la inseguirà più sotto casa, ma esaminerà le delibere, le cose che ha fatto, no? Invece di inseguirla un po' dappertutto. Quindi, insomma, rimettere un po' di ordine, questo mi sembra di capire la... Beppe Sala e la Chiara Appendino non vengono tampinate le giornate. Semplicemente perché non c'è notizia. Fino a quando ci sarà notizia, ci saranno i giornalisti che le cercheranno. Esatto. Bianconi è un consiglio da avversario politico. Ha ragione, quel festival ha detto da nessuno. Vede, i gridini rispondono molto a una mentalità italiana, che è questa. I politici non devono raccomandare nessuno, devono essere trasparenti, perché se no devono andare a casa. Poi uno c'ha il figliolo da impiegare e si telefona, dice: lei che onorevole, potrebbe raccomandare il mio figliolo? Cioè, vale la trasparenza per tutti gli altri, meno che per i cazzi suoi. Per i cazzi suoi io devo fare il non trasparente. E così sono i gridini. Tutti gli altri devono essere specchiati. Per loro no, non vale, capito? E d'altro canto, gli mette la ghigliottina in piazza, prima o poi ci mette la testa sotto. Eccolo. Cadranno le teste, ma anche loro, dice, prima o poi. Dai, andiamo al traffico, poi rientriamo con Umberto Brindani, con Maurizio Bianconi, state con noi. Milan, mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Grazie Milan di essere tornato, grazie. Per carità, il Movimento 5 Stelle può sbagliare, nessuno lo mette in dubbio, perché è un partito giovane, ma almeno partono dall'onestà. Sì Milan, poi ha battuto il record, neanche dopo 12 secondi già parla male dei 5 Stelle, ma 13 miliardi di euro di debiti a Roma chi l'ha fatti, Gesù? Ma come? Oggi la Reggi non ha mangiato di bambini, non ha rubato oste in chiesa, qualche crocifisso. Ma fateci sapere qualcosa, magari qualche scoreggia in giro l'ha fatta. Semplicemente schifo che voi venite. Noi facciamo schifo, sì, ma ci sono voi, tutti con voi gli venite. Facciamo no, lei non mi fa, guardi, non mi, non mi mette. Schifo, no, sì, no, perché voi venite. Voi venite qua a sì, parlarci soltanto di questo, mentre noi dobbiamo parlare di politica. Dopodiché, la vicenda giudiziaria. Eccolo lì, era Cicchitto, Cicchi Bianconi, l'abbiamo recuperato. Ma certo che mi fate schifo, è un po' forte, però. Com'è? Cicchitto. Cicchitto viene dall'esperienza craxiana. Che lo ha segnato per tutta la vita, riempiendolo di un pessimismo cosmico sulle qualità umane di quelli che fanno. È un uomo intelligentissimo, ma c'ha questo trauma. C'è questo trauma. Vabbè. Allora, Brindani, io non ho capito una cosa, cioè aiutaci a capire, tu che sei il direttore, questa storia della legge elettorale. Dai, lo so, sono le 6:50 del mattino, non vogliamo farli addormentare nessuno, non vogliamo parlare del provincellum, i giovani turchi. Scusa, posso fare un appello? Sì. Perché un'altra cosa che io non ho capito è, ma il Jobs Act funziona o no? L'appello che vorrei fare, dateci un dato, non 10 dati. A sentire Renzi funziona, a sentire Renzi non funziona. Due giorni fa ci hanno detto che sono aumentati i licenziamenti, quindi il Jobs Act non funziona. Dopo due giorni viene fuori che sono aumentati gli occupati. Sì. Dopodomani salterà fuori che sono aumentati i disoccupati. Siccome ci sono almeno tre o quattro fonti, sì, dati, cioè l'Istat, l'Ips, il Ministero del Lavoro, datecene ma perché uno. Non ma si mettono questo... d'accordo e ce ne dicono uno? Ma io l'ho detto, questo è il paese in cui anche i dati Istat sono contestati. Uno più uno non fa due, fa due e mezzo, fa 1,8, dipende da chi lo legge. So. Comunque lì il Jobs Act, la questione è che finché se tu dai degli incentivi alle imprese per assumere, è chiaro che all'inizio, e questa è un po' l'accusa al mercato, è stato tra virgolette drogato dal punto di vista delle assunzioni, poi se finiscono gli incentivi magari finiranno le assunzioni. Diteci se c'è più lavoro, se c'è meno lavoro, c'è sinceramente, lavoro. Sinceramente non lo capisco, così come non capisco cosa sta succedendo sulla riforma elettorale, perché a questo punto lei in difficoltà sul referendum è andato incontro alle richieste della minoranza del PD e di tutti gli altri, quindi dice va bene, discutiamo della legge elettorale e ha preso un coro di no, e questi hanno detto no. Ecco lì Bianconi, adesso non è un po' d'asilo Mariuccia l'atteggiamento di dire ma è il governo che deve dare la prima proposta di cambiamento, se no noi no, voi no, voi no, prima voi. Vedi Milan, c'è un'ignoranza in giro che fa spavento, è 6,52, mi rompe un po' a spiegarlo, ma il fatto stesso che governo e opposizione mettano insieme due cose che non stanno insieme, cioè la riforma elettorale, la legge elettorale rende buona o cattiva, una cattiva riforma, una buona riforma, è da sommare, perché la legge elettorale è una cosa e la riforma della Costituzione è questo, un'altra. E questo è chiaro. Il fatto che se ne faccia mercato, come ne fece Berlusconi rispetto alla presidenza della Repubblica, cioè la riforma era buona, se il presidente era quello che piaceva a lui, è diventata cattiva perché il presidente... Ma questa è la critica di base, mettere la legge elettorale nella riforma costituzionale, e va bene. Un branco di persone che o non sanno fare il loro mestiere o lo fanno per i cazzi loro. Sì, quindi rispondere alla domanda che dice lei è dare adito a una brancata o di interessati o di somari. Vabbè. Detto, e allora lasciamo tutto così. Il secondo fatto importante è che una legge elettorale, la buona politica insegna che si fa a un anno dalle elezioni, non a 5 anni dalle elezioni, perché la si fa sempre su misura rispetto alla situazione presente. Sì. La situazione di 3 anni fa non è la situazione di oggi. E quando io gli dicevo che sarebbero arrivati i Pimnelisti alle elezioni e avevano fatto una legge per pigliare un tasca da 5 Stelle, Parisi, quello di Verdini, e tutti gli altri mi dissero che io non capivo un cazzo, e invece ho dimostrato che non capivano un cazzo loro. Così non abbiamo capito neanche noi, però quella roba lì. Io a lei gliel'avevo detto. Sì, ma domani Brindani esce con Oggi. Cosa deve scrivere in copertina della legge elettorale? La legge va cancellata, mi fatta tutta. Brindani, cancellare, azzerare tutto. Ripartire da zero. È una legge che va fatta secondo i criteri dell'ordinaria mentalità. Cioè una legge che deve rispettare la rappresentanza. Sì. E deve dar modo al governo di governare, non deve dar modo a Renzi di fare scopa o alla minoranza del PD di adeguarsi una sua rappresentanza. Ve ne voglio anche me di comprare dei cani Weimaraner, adesso mi informo, li metto qua nello studio, porca miseria. Io penso che alla gente gli interessi poco ma io quello continuo a dire alla gente, andate adesso nelle metropolitane, negli autobus, non datevi del populista e chiedete alla gente, ma vi interessa il lavoro? Vi diranno sì. Vi interessa sapere se andate in pensione? Come? Sì. Vi interessa la sicurezza nelle strade? Sì. Vi interessa la legge elettorale? E chi porta un cavolo? Ecco, vabbè, guarda, ma il Giobatte non c'entra assolutamente niente rispetto all'aumento di contratti fissi e la sua diminuzione. È stato un beneficio che le aziende avevano. Sì, ma infatti è fuori dal Jobact, non è dentro il Jobact. Vabbè, però questo c'è. Brindani, domani con cosa si può dire? Cosa è la copertina di oggi o no? Allora, io avevo una copertina su Barbara D'Urso, ma corro a fermare le rotative, metto in copertina Bianconi col titolo cancellate tutto, cancellate tutto, va benissimo così. Domani doppia copertina, Barbara D'Urso o Italicum, adesso vedremo.